I racconti di Cristina Cattaneo, medico legale. Scheletri antichi. Schieramento! Scudi a me! Il legionario Tito Pullo è un eroe della 13ª legione. Ma guardatelo adesso! La giustizia non guarda in faccia a nessuno. Pullo ha commesso un terribile sacrilegio e pagherà per questo con la vita, come ogni altro uomo che qui infrange la legge. Avevo conosciuto degli archeologi e quindi ho iniziato a scavare. Per 3-4 mesi ho scavato con loro, assunta da loro a Milano, e qui ho conosciuto il mondo dell'archeologia e dell'antropologia degli inglesi. Ho deciso che questa era la cosa che volevo fare, perché univa un po' i due mondi, il mondo delle lettere, dell'antichità e il mondo della scienza, e sono andata e ho fatto master in Inghilterra a Sheffield in antropologia, e poi sono rimasta altri 4 anni perché mi hanno offerto di fare un dottorato, quindi ho fatto questo dottorato in scienze in Inghilterra. A volte è davvero faticoso misurarsi giorno per giorno con la ricostruzione di un passato recente di cui bisogna sempre rendere conto in maniera inappuntabile, per il quale bisogna fornire prove, essere rigorosamente vigili e tenere a bada emozioni e fantasia. Per questo motivo, volgere lo sguardo su resti umani di epoche antiche, che non hanno più rilevanza forense, la cui storia non va difesa con accanita determinazione in tribunale, diventa un rifugio, una boccata d'aria fresca. E quindi può capitare che le attenzioni di medici, patologi, antropologi, biologi si concentrino su scheletri di millenni prima, per cogliere da questi corpi pezzi di storia non solo di popolazioni, ma anche di singole vite. In una delle stanze dell'Abanoff, i tavoli sono coperti di ossa di epoca preistorica, romana e medievale, ogni scheletro con la sua storia da raccontare. All'Abano sono passate centinaia e centinaia di scheletri antichi, le sue stanze sono tappezzate di ossa di epoca medievale romana, visto che ogni tanto le soprintendenze, quando fanno degli scavi, ci mandano il contenuto delle tombe. Il metodo è lo stesso, e l'osso ti può raccontare tantissime cose sul passato. Soltanto guardarlo puoi capire se è maschio o femmina, se è un bambino, se è un adulto, e attraverso studi magari più approfonditi, come di microscopia, attraverso la radiologia, riesci a capire di che malattia aveva sofferto la persona e a volte anche di che cosa era morta. In pratica, studiando i resti scheletrici di civiltà antiche, riesci a ricostruire il passato vero e proprio. Guardando tutte queste popolazioni, magari riesci ad avere informazioni che non erano raccontate dagli storici, comunque che non sono raccontate nei libri di testo. Per esempio, abbiamo studiato centinaia di scheletri della Milano romana e si scopre che la Milano romana già all'epoca era multietnica, che c'erano malattie infettive molto gravi, ma che ad esempio stavano molto meglio le persone rispetto alla Cremona di qualche centinaia di anni dopo, nel Medioevo. Si riesce soprattutto a cogliere storie intime molto umane. Mi ricordo molto bene una volta di un caso di una tomba di una donna longobarda, in cui avevamo tirato fuori le ossa pezzo per pezzo, e quando siamo arrivati a studiare le ossa dei piedi, insieme al talo, al calcagno, a ciò che ci aspettavamo di trovare in questo distretto, si erano trovate le ossa di un infante, di un bambino, e studiando questi resti di queste due persone, cioè di questa donna di circa 30 anni e di questo neonato, avevamo un po' riscoperto la storia di queste due vite e di come la madre probabilmente era morta di parto poco dopo il parto insieme al suo piccolo. Quindi si riesce a ricostruire anche dettagli di vite singole, di vite private. Donatella Caporusso, direttore del Museo Archeologico di Milano. I il valore aggiunto degli scheletri è veramente grandissimo, perché per esempio se noi prendiamo, che ne so, una stele funeraria, un'epigrafe, sappiamo che magari nel sepolcro di famiglia c'era l'elemento indigeno che magari si mescolava all'elemento romano, e quando invece troviamo uno scheletro che ha una conformazione paleopatologica che proprio ci rappresenta esattamente quello che scopriamo dai reperti archeologici, è una conferma veramente bellissima e incredibile, no? Cioè vedere la mescolanza delle razze non solo attraverso gli scheletri ma anche attraverso i reperti archeologici è un dato importantissimo. Capita più raramente su questi scheletri antichi di poter vedere veri e propri segni di violenza, non perché non ci fosse la violenza, ma forse perché i metodi di uccidere sono diversi e non sempre lasciano tracce sullo scheletro. La mia prima volta, il mio primo faccia a faccia con una morte violenta, me la ricordo benissimo, era una tomba romana della zona di dintorni di Pavia, e studiando, lavando lo scheletro che veniva da questa tomba, mi ero accorta che alla base del cranio di questa donna molto ben conservata mancavano i due cuscinetti che uniscono il cranio al collo, erano perfettamente sezionati, e con abbastanza stupore mi resi conto che mi trovavo di fronte a una decapitazione. Casteggio è stata rinvenuta una tomba con una sepoltura di una donna con il cranio appunto staccato dal resto del corpo e girato rispetto alla normale posizione anatomica, e si tratta appunto di una decapitazione che è una delle pene capitali previste, diciamo, dalla normativa romana in caso per esempio di adulterio, e quindi è possibile che magari la nostra signora fosse stata punita per un delitto di questo genere. Pullo ha commesso un terribile sacrilegio e pagherà per questo con la vita, come ogni altro uomo che qui infrange la legge. I rissosi verranno fustigati, i ladri verranno strangolati, i disertori verranno crocifissi. Mi trovai di fronte a un omicidio antico per eccellenza quando un giorno ci portarono in laboratorio un cranio che era stato trovato durante degli scavi in una chiesa, nella chiesa di Sant'Andrea di Melzo. Per una serie di vicissitudini storiche si pensava che si potesse attribuire questo cranio a Galeazzo Maria Sforza. E ci chiedevano di vedere attraverso le indagini scientifiche se si poteva capire di che cosa era morto e se effettivamente corrispondesse a quella persona. Francesca Vaglienti, ricercatrice di storia medievale, Università degli Studi di Milano. Galeazzo Maria è il quinto duca di Milano ed è stato a lungo quello meno conosciuto tra i duchi Sforza e i Visconti che l'hanno preceduto e seguito. La sua storia a lungo è stata legata alla congiura del 26 dicembre 1476 che l'ha visto cadere sotto i pugnali di tre congiurati che si appellavano contro il tiranno per un ritorno alla Repubblica. Si trattava di una congiura ordita a livello nobiliare, perché Duca Galeazzo Maria tassava i nobili, i feudatari e soprattutto il clero. Tra i congiurati segreti, il cui nome non è mai stato fatto, c'erano anche due fratelli del Duca, uno meno noto, Sforza Maria, l'altro molto molto noto, Ludovico il Moro, i quali avevano già tentato di assassinarlo in una seduta del Consiglio. Grazie alle cronache dei contemporanei e soprattutto di uno dei testimoni principali che ha assistito alla congiura ed era amico fidato e consigliere del Duca, noi abbiamo la possibilità di ricostruire praticamente minuto per minuto che cosa è accaduto il giorno di Santo Stefano. Orfeo Cenni da Ricario infatti era nelle immediate prossimità del Duca, alle sue spalle, e quando i congiurati, seguendo il modello della congiura cesaricida, si sono approssimati al Duca, uno fermandolo innanzi e quindi porgendogli con la scusa di una supplica una carta a cui poi si è sostituito un pugnale, e gli altri due, diciamo così, accerchiando ai lati il duca, ha potuto riportare quello che ha visto, e quello che ha visto è particolarmente drammatico, perché addirittura a un certo punto dice che ha visto caracollare all'indietro il duca caracollando indietro, dice Orfeo Ceni da Ricavo, mi die quasi di petto, cioè gli andò incontro con la schiena verso il petto di questo testimone, dopodiché cadde seduto e i congiurati continuarono a colpirlo. Ma sappiamo poi dall'esame autoptico che è stato fatto in seguito, gli furono inserte 14 ferite, di cui alcune nel cranio e nella gola. Il nostro compito era quindi quello di capire di che cosa era morta questa persona e se si trattava di Galeazzo. Avevamo soltanto il cranio da studiare e quindi era molto difficile capire le cause di morte. Sapevamo che Galeazzo era stato accoltellato al collo e al corpo, al torace, all'addome, e noi non avevamo a disposizione il resto del corpo per poter verificare se questo scheletro era morto in questo modo. Ma la cosa più importante era quella di identificarlo e di capire veramente se poteva essere Galeazzo. Con le indagini a radiocarbonio scoprimo che in effetti questa persona, di cui avevamo trovato i resti, era morta intorno alla metà del 400 e Galeazzo era effettivamente morto nel 1476. L'esame dei denti ci diceva che era un soggetto intorno ai 30-40 anni. Si sapeva che aveva subito dei traumi cranici in diversi tornei cui aveva partecipato e che aveva sofferto di febbri terzane, delle specie di accessi malarici. Quindi abbiamo visto che sul cranio in effetti c'erano due aree di rimodellamento osso, che erano due calli che certamente erano dovuti a delle piccole fratture, non molto gravi, ma piccole fratture della volta cranica. E sui denti c'erano i segni di quello che noi chiamiamo ipoplasia dello smalto, delle piccole bande trasversali che indicano un arresto di crescita del soggetto dovuto spesso a delle malattie piuttosto gravi, e in questo cranio corrispondevano uno stress patologico che era avvenuto all'età di 5-6 anni, proprio l'età in cui Galeazzo aveva avuto gli accessi più gravi di febbri terzane. Alla fine venne fatta anche una ricostruzione del volto che, paragonata con i quadri dell'epoca, mostrava una fortissima somiglianza, soprattutto un labbro superiore molto pronunciato rispetto a quello inferiore. Tutto sommato sarebbe sbagliato dire che certamente si tratta di Galeazzo Sforza. Se vogliamo essere onesti scientificamente, dobbiamo concludere in maniera forense con un giudizio di elevata compatibilità. È molto probabile che questo cranio sia di Galeazzo, ma non ne abbiamo la certezza. Ci piace pensare che sia lui, e ci siamo ormai affezionati a questa testa di Galeazzo che sta qui in ufficio, che ogni giorno ci accompagna e ci ricorda un po' della Milano medievale. Corpi. Corpi. Corpi. Tra le attività più curiose che fanno parte dello studio di scheletri antichi a Labanov devono essere annoverate quelle dei santi. Negli anni era già successo di dover stilare elenchi di ossa ritenute reliquie, ma niente di più. La vera e propria avventura tra le ossa di santi iniziò quando venne richiesta una serie di studi approfonditi di scheletri religiosi, con un accostamento voluto tra scienza e fede, primi fra tutti i presunti resti di San Nazario. Tra gli scheletri che gravitano per le stanze del Labanov ci sono anche quelli di santi, e spesso ci è capitato di dover studiare ossa considerate reliquie. Abbiamo fatto esperienze positive e negative a questo proposito, e la positività e la negatività dipendeva più che altro dalla serenità con la quale il committente approcciava il confronto, l'avvicinarsi del dato scientifico con la fede. Il caso più bello che abbiamo avuto in questo senso è stato sicuramente però quello di San Nazario, cioè lo studio, la richiesta di studiare i resti scheletrici attribuiti a San Nazario. Don Tarcisio Bove, parroco della Chiesa di Santissimi Apostoli e Nazaro Maggiore. San Nazaro è un martire dei primi secoli e la sua vicenda è legata a quella di Sant'Ambrogio, vescovo di Milano nella seconda metà del IV secolo. Ambrogio, vescovo di Milano, riesce a ritrovare un giardino. Così viene descritto il ritrovamento del martire Nazaro nella biografia di Sant'Ambrogio, scritta dal diacono Paolino. Riesce a ritrovare Nazaro in un giardino fuori dalla città. Lì vi è un luogo nel quale i custodi hanno avuto segnalazione, dice sempre il biografo Paolino, che vi siano dei preziosi tesori e che questa consegna di custodirli è stata lasciata loro dai padri, perché non abbandonino quel luogo. Ambrogio ritrova lì il corpo di Nazaro, che secondo la descrizione si trova in una situazione quasi di immediata sepoltura, ancora con il sangue fresco, ancora con i capelli ben ordinati, il corpo ben lavato. Questi sono particolari, appunto, di racconto più che di realtà. Ciò che importa ad Ambrogio è comunque di porre in grande risalto la figura di Nazaro. Viene preparata una processione, Nazaro è portato solennemente nella Basilica degli Apostoli, in corso di Porta Romana, e lì tumulato nell'abside. Iniziamo a studiare questi resti e riuscimmo a portare soltanto per una lunga notte in laboratorio il cranio di questo scheletro per fare il calco, per poi fare la ricostruzione facciale, e quindi studiamo per 24 ore consecutive tutto ciò che si poteva studiare da questi resti. I dati generici corrispondevano all'epoca della morte, o il secolo di morte, il sesso, l'età e quel poco che si sapeva sulla storia di San Nazario. Ma la cosa più interessante la scoprimmo quella notte in laboratorio. Il cranio, soprattutto la parte facciale, in alcune sue parti era composta dalle ossa sbagliate, cioè c'erano delle parti di ossa della volta cranica all'interno del naso, c'erano delle parti di mascellari intorno alle orbite, quindi c'erano i frammenti ossei nel posto sbagliato a cercare di ricostruire l'anatomia di un cranio. Chiaramente si trattava di un cranio rotto, frammentato, che era stato messo insieme molti secoli fa da chi non conosceva bene l'anatomia ma aveva una vaga idea delle sembianze di un cranio, di uno scheletro. I pezzi corrispondevano tutti molto probabilmente a un singolo cranio. La cosa più interessante però fu che al posto degli zigomi trovammo i condili occipitali. Questi condili sono, tornando al discorso della decapitazione, proprio le aree di articolazione tra la testa e il collo. Guardammo la base del cranio e ci accorgemmo che questi condili erano stati sezionati molto probabilmente da una lama pesante. E ci ricordammo a questo punto che ci avevano raccontato che San Nazario era stato decapitato. La figura di Nazaro era quella di un martire che probabilmente aveva subito il martirio all'inizio del IV secolo, sotto la persecuzione di Diocleziano. Questo coincide un po' con quella custodia da parte dei custodi del giardino dove Ambrogio lo ha trovato, che per un paio di generazioni hanno ricevuto la notizia che lì vi erano grandi tesori. Importante è stato anche il fatto di raccogliere documentazione su questa persona, che doveva essere vissuta appunto in un arco di tempo fino ai 70 anni e che aveva subito il martirio secondo le caratteristiche appunto dell'uso romano, inginocchiato, eretto, con un colpo, un fendente che alla base del cranio le aveva frantumato tutta la parte ossea. Altra storia di santi in cui abbiamo visto dei riscontri scientifici abbastanza interessanti è quella di Sant'Evasio, che è il santo patrono di Casale Monferrato, che è la città più grande vicino al paese piccolo di Monferrato dal quale io vengo. Lo scheletro di Sant'Evasio era molto meglio conservato di quello di San Nazario. Mi ricordo che mentre stavamo studiando questi resti all'interno della parrocchia, capitò di vedere una specie di crosta ossea su una delle coste e poi ancora sulla costa dopo e sull'altra ancora dopo. Quindi avevamo dedotto che prima di morire questa persona aveva avuto un trauma al torace, ma poco prima di morire, qualche giorno, qualche settimana. Quando portammo questi risultati agli storici che si occupavano di questi personaggi dell'Università di Torino, fummo sorpresi nell'apprendere che Sant'Evasio aveva avuto una passio ben particolare e una decina di giorni o qualche settimana prima di morire era stato picchiato e buttato in un pozzo. La cosa più affascinante e interessante di questa avventura dello scheletro del santo fu il nostro viaggio all'interno della Lipsanoteca, che imparammo da sacerdote, dai committenti di questo studio, il posto dove si tengono, dove vengono raccolte le reliquie. Stefano Morigi, filosofo della scienza, Università degli Studi di Milano. Al di là di qualsiasi approccio fideistico, per comprendere il senso e il significato della reliquia occorre ricordarsi anzitutto che il cristianesimo è una religione della carne. Lo scandalo, così tecnicamente si dice, con cui il cristianesimo ha rivoluzionato il mondo delle idee è stato quello di affermare che la verità non sta in un concetto astratto, ma nella testimonianza concreta di una vita, nella fattispecie della vita di Cristo. E anche nella vita dei santi, che del modello di Cristo sono in qualche senso una variazione sul tema. Ecco che allora all'interno di queste logiche, di queste dinamiche, il corpo non è più una semplice struttura biofisiologica, ma diventa il custode di un senso e di un significato che cede, trascende, va oltre quel corpo, ma non può darsi se non nelle membra stesse di quel corpo. Per cui conservare lo sforzo titanico, per certi versi ossessivo e disperato, di conservare le reliquie è il tentativo all'interno di una precisa tradizione di voler affermare una verità nella sua carne, il che da un punto di vista più precisamente psicologico offre anche una strategia consolatoria a fronte di chi cerca di compensare nella concretezza di un residuo biologico la lontananza di un Dio che per alcuni può essere solo incomprensibile, per altri potrebbe essere addirittura inesistente. Il recupero del volto di un santo è il recupero della sua identità, questo vale all'interno di una tradizione teologica, ma nel senso più lato all'interno di una cultura che ha puntato il concetto di conoscenza soprattutto legato a quello di visione. Noi conosciamo e riconosciamo nella misura in cui vediamo, quindi identificare un significato significa anche riconoscerlo nei tratti di un corpo e nella fattispecie di un volto, che è quella parte del corpo che più ci distingue dagli altri nella nostra precisa identità. Quindi l'attento lavoro di ricostruzione di un volto è l'attento lavoro di ricostruzione di un'identità che appunto incarna quella verità che quella vita ha saputo e potuto raccontare. Ci ritrovammo, io e il mio collega Davide Porta, che si occupava di ricostruire il volto di questo santo, quel pomeriggio a fare una processione attraverso stanze che si susseguivano tappezzate da quadri nei quali erano contenuti frammenti di ossa, frammenti di denti, frammenti di tessuti molli, quindi di cuore, conservati anche male con colle di vario genere, e tutti contornati da pizzi e pizzi palazzetti amorevolmente costruiti da suore. E mi ricordo che commentammo quella sera sulla curiosità della fede e della religione, e era molto, indipendentemente dal credo di ciascuno di noi, rimanemmo molto affascinati dal contrasto di una religione, degli aspetti più intellettuali, teologici, filosofici di questa religione cristiana cattolica, contrapposta, l'avevamo appena visto, ad aspetti molto più pagani, molto più rituali, di pezzi di morto dietro al vetro di un quadro. Stabilire a chi appartengono davvero questi scheletri religiosi non è forse compito del medico legale? Sono anch'esse vittime da identificare. Le teste ricostruite di San Nazario e di Sant'Evasio troneggiano oggi in una stanza dell'Abanov, insieme a tante altre, tra cui quelle di nobili signori romani, vecchietti scomparsi e deceduti lontano da casa, barboni morti per il freddo e prostitute barbaramente ammazzate, senza distinzione di sorta e nel rispetto del più genuino spirito cristiano. Fox Crime, canale 114 di Sky, vi ha presentato Corpi. Corpi è un programma di Cristina Cattaneo, ideato da Gianluca Nicoletti, regia di Paolo Corleoni, a cura di Guido Scotti.